Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna, nonché potete trovarci ed ascoltarci in tutto il mondo tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it, tramite il web naturalmente. E abbiamo anche l'enorme possibilità di ampliare il nostro raggio d'azione terrestre, diciamo così, tramite il DAB nelle province limitrofe per il momento, ma con l'inizio dell'anno nuovo probabilmente ci sarà un'espansione che speriamo illimitata. Ogni mercoledì alle 10.30 all'incirca è l'ora in cui inizia Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica live rigorosamente ufficiale di ogni epoca e di quasi ogni genere. E anche oggi 19 novembre 2025, come sempre, inizia Città Fujiko Live Club, una novità che vi propongo, che vi raccomando, novità che ribadisco ancora una volta riguarda la mia trasmissione, magari questo album che ci andremo ad ascoltare oggi l'avrete già sentito chissà quante volte, ma per quel che riguarda Città Fujiko Live Club è una novità assoluta. E oggi è l'ultima uscita discografica, un doppio CD di una band che vi ho già fatto ascoltare parecchie volte, una degli ultimi epigoni del progressive britannico. Si chiamano Big Big Train, grande grande treno. Originariamente venivano da Barmouth in Gran Bretagna, ma membri fondatori è rimasto solo Gregory Spouton, che è il bassista, e a poco si è trasformato praticamente in una multinazionale della musica progressive. Abbiamo un italiano, Alberto Bravin, che è il cantante, suona anche la chitarra e le tastiere, Nick Virgilio, che è il batterista ma canta anche, Rick Sjöbom o qualcosa del genere, che è svedese e suona la chitarra, mentre Oskar Oldorf, che è norvegese, suona le tastiere. L'unica, diciamo, delle isole britanniche, a parte Spouton naturalmente, è Claire Lindale, che è la violinista e arriva dalla Scozia. Loro si sono formati nel 1990, ma per lungo tempo sono stati una band di studio, facevano pochissimi concerti e diciamo, come si dice a Bologna, tiravano indietro per fare concerti, anzi cercavano di evitarli ai massimi livelli. Invece dal 2015 hanno cominciato a suonare regolarmente dal vivo, e addirittura dal 2016 ad oggi sono usciti 7 album dal vivo. Non mi Questo è l'ultimo, si chiama Are We Nearly There Yet? Siamo circa lì, più diciamo così, detto un po' con una traduzione maccheronica, Live Around the World. Infatti è stato registrato in diverse occasioni, non è dato sapere esattamente quando, ma l'elenco del paese in cui è stato registrato questo doppio CD vedono Gran Bretagna, Germania, Olanda, Norvegia, Danimarca, Belgio, Canada, Portogallo e addirittura il Mar dei Caraibi, dove i Big Big Train sono stati in una delle crociere musicali che vanno per la maggiore negli ultimi anni. Il tutto è stato registrato fra il marzo del 2024 e il maggio del 2025. E siccome sono stato in Belgio quest'estate, ho scelto un paio di registrazioni effettuate in Belgio e ve le vado subito a proporre. Il primo brano, premetto che essendo progressive, i brani sono tutti abbastanza lunghi, viene scritto e cantato appunto da Alberto Bravin, che ce lo introduce, e quindi potremmo capire abbastanza agevolmente, è in inglese naturalmente, ma un inglese molto tranquillo, molto capibile, molto italianizzato, diciamo. Alberto Bravin, loro sono Big Big Train, il brano ce lo dice appunto lui stesso. So the next song is from The Likes of Us and tells a story about my hometown Trieste in Italy, about a castle, a white castle, and it's called Miramare. Set in green enough, aquamarine. faces down the stream. The tower upon the shore fades into a memory. It's time to dream. Oh, try to forget. Lost behind a pile of Se siete stati a Trieste, avete, se non visitato, sicuramente visto quello che viene chiamato il Castello di Miramare. In realtà è una mega villa, ma questo è un altro discorso. E Alberto Bravin, cantante, chitarrista, tastierista di questi Big Big Train, viene proprio da Trieste e ha omaggiato questo castello di Miramare in questa canzone che appunto si chiama Miramare, contenuta in questo album che vi propongo oggi come novità, Are We Nearly There Yet? Un doppio album che vede il primo CD chiamato The Lives of Us, il secondo CD invece è The Lives of Others, la vita nostra e la vita degli altri. Il tutto registrato in giro per il mondo ed è secondo me uno dei migliori album pubblicati live, pubblicati in questo 2026. Vi dicevo che questo brano è stato registrato in Belgio e adesso ci ascolteremo qualche registrazione effettuata in questo piccolo paese, una piccola monarchia, ma una nazione veramente molto molto molto musicale. Tanto per non infierire, diciamo, perché in un paese tanto piccolo, la capitale, Bruxelles, è accentratrice in tutti i sensi, vediamo di ascoltarci delle cose che non sono state registrate nella capitale belga e che magari a cui magari dedicheremo una trasmissione prossimamente, perché Bruxelles è veramente piena piena piena di musica, piena di registrazioni live. Andiamo ad iniziare alla grandissima, uno dei festival, ci sono diversi festival musicali in Belgio, tutti molto interessanti, molto, molto frequentati. Uno dei più antichi, chiamiamoli così, è il Rock Vechter Festival. Vechter è una cittadina che sta a 40 km circa da Bruxelles. E a questo festival nel 1982, nel luglio esattamente del 1982, parteciparono gli U2, quelli veri, quelli ruspanti, quelli in divenire. E questo brano è stato inserito in un 12 pollici di diversi anni fa, è un medley, è Through the Brick, Through the Window e Day Without Me, ce lo dirà, auguri, ce lo dirà anche lo stesso Bono. Questi sono U2 from Vechter. I'm stuck into myself. I primi U2 erano veramente grandissimi, dimostrano questi due brani uniti insieme, Through a Brick, Through the Window e A Day Without Me, in questo caso eseguiti al Brechter Rock Festival in Belgio il 4 luglio del 1982. Da Werchter ci trasferiamo invece a Gant, altra cittadina molto molto bella, con un bellissimo castello proprio in centro città, visita bellissima e godibilissima. Qui il 28 giugno del 1992 andò in scena l'ultimo concerto di una band americana che arrivava da Davis, gli Thin White Rope, appunto, sono stati attivi dal 1983 al 1992. E l'ultimo album che hanno pubblicato, appunto, è quello che racchiude il loro ultimo concerto. Si chiama The One That Got Away. Il brano che ci andiamo ad ascoltare forzatamente a causa del tempo, diciamo così. Si chiama Eleven, loro sono Thin White Rope. Feel the spirit of life that relents my will. Thank you. E qui termina questo lunghissimo brano che ci siamo ascoltati dal Miles Davis Quintet, quello che viene definito il secondo grande quintetto di Miles Davis, che naturalmente era la tromba, ma questo spero lo sappiate. Wayne Shorter suonava il sax, Herbie Hancock il piano, Ron Carter il basso e Tony Williams la batteria. Fra parentesi, il brano che ci siamo ascoltati si chiama Footprints ed è scritto appunto dal sassofonista, grande sassofonista Wayne Shorter, che di lì a qualche anno poi sarebbe andato a formare i Weather Report, ma questa è tutta un'altra storia. Il tutto da un bignamino, diciamo così. Dopo la morte di Miles Davis, che è avvenuta nel 1991, il suo entourage ha pubblicato una serie di bootlegs ufficiali che sono tutti tripli o quadrupli e costano tantissimo, però hanno pubblicato anche il compendio, diciamo così, di quegli album. Questo infatti è Live in Europe 1967, cioè 1967, che originariamente era un triplo CD, qui è un CD single che comprende un CD solo, uno solo, che comprende il meglio, diciamo così, dei tre CD che formano la versione originale. Questo Footprints è stato registrato al Koningin Elizabeth Hall di Antwerp il 28 ottobre 1967. E ci ho messo una vita io a capire che Antwerp era quella che noi banalmente chiamiamo Anversa. Rimaniamo quindi ad Anversa, ma è meglio chiamarla Antwerp, cerchiamo di essere un po' europei, un po' più larghi del nostro piccolo orticello, con una band che arriva da un sobborgo di Manchester, dalla Greater Manchester, si chiama Bury, il sobborgo, e sono attivi dal 1990. Loro si chiamano Elbow, come gomito, e sono molto molto molto famosi in Gran Bretagna, una fama che non è bissata qui nella nostra povera Italietta, che certe musiche non vengono promosse e quindi non, la gente proprio non conosce questi Elbow, ma meriterebbero maggior fortuna, anche se a volte sono un po' troppo melodico, sono un po' troppo melodici. Il loro album si chiama Build the Rocket Boys, è stato pubblicato in diverse edizioni con allegati un secondo CD con registrato in diversi paesi. Questo è appunto Build the Rocket Boys, la Belgian Limited Edition, perché il secondo dischetto vede 5 canzoni, delle quali 3 sono state registrate alla Lotto Arena di Antwerp, appunto, il 6 novembre 2011. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare, lo ripeto, loro si chiamano Elbow, si chiama Dear Friends ed è stato registrato ad Anversa. Is everybody still okay? Yeah! We haven't played this many times, so we're really enjoying playing it. We'd like to dedicate it to anybody that's not been to the concert before. Yeah! Here we go. Oh yeah, it's me, isn't it? Yeah. Just have a slow. 1, 2, 3. one major. Old friends used to compare in my piracy. This is an old from the roadside. Cutting the breeze with his Tennessee sundown, came the sound of the voices I know. I've been pondering trees on the come down, and now in the moment I'm home. I got blustering off through the sails of the clipper, and the truth never phrased but yarn. Struck me to say, while so far away, you're with me today. You are here in my head, in my heart. Dear friends, you are major. Old friends used to compare in my piracy, and you are the stars I navigate home by. Dicevo, un po' mielosi, molto tranquilli, ma sicuramente molto accattivanti. Ilbow, registrati in quel di Antwerp in Belgio il 6 novembre del 2011, il brano si chiamava Dear Friends. Thank you so much, Antwerp. Da Antwerp ci trasferiamo a sud, siamo al confine con il Lussemburgo e la città si chiama Govy, alla francese, perché la parte sud del Belgio è, diciamo, praticamente Francia, anche se loro non ne vogliono sapere. Comunque in scena è un trio che arriva dalla Cornovaglia, sono attivi dal 2007, si chiamano Wille and the Bandits, Wille proprio W-I-L-L-E. E, come dicevo, un trio, ed hanno registrato il loro unico album live appunto in questa Govy in Belgio. Fra l'altro, poi in aggiunta, se andate sul sito, ci dovrebbe ancora essere un extended play che è scaricabile gratuitamente. Grande musica rock blues, naturalmente. E ci andiamo ad ascoltare. È stato registrato in un posto che spero di pronunciarlo bene, si chiama Fermé de Madelon, qualcosa del genere, appunto a Govy nel marzo del 2013. Il brano che ho scelto per voi si chiama Virgin Eyes, Wille and the Bandits. Oh, Seconda parte di Città Fujiko, siamo al 19 novembre 2025, seconda parte che come sempre inizia con la novità che vi propongo quest'oggi, che vi consiglio caldamente quest'oggi Big Big Train, l'ultimo album si chiama Are We Nearly There Yet, è un doppio album registrato qua e là per il mondo, molto molto bello, molto molto progressive. E se state già pensando ai regali di Natale e avete un amico a cui, o un'amica a cui piace il progressive, sicuramente questo è il regalo giusto. Doppio CD veramente veramente veramente notevolissimo. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Skates On e lo ripeto, l'album invece si chiama Are We Nearly There Yet. Distant land, new walls rise. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta tantissime cose e ancora una volta, a costo di essere noioso, vi dirò che il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade. E siccome oggi abbiamo sei decadi, andiamo subito ad iniziare dal 1970. Una band che non ho capito bene perché è più o meno caduta nel dimenticatoio, ma è stata una band veramente importantissima nel panorama musicale britannico. Si chiamavano Traffic, venivano da Birmingham, Gran Bretagna naturalmente, e sono stati attivi dal 1967 al 2004 con molte interruzioni e molti cambiamenti di personaggi, di musicisti. L'unico sempre presente è il leader della band, Stevie Winwood, grande tastierista, grande chitarrista, grande cantante. Look out to the sea. E hanno iniziato poi anche, si sono trasformati da un trio quartetto che erano inizialmente a una band, mega band con 8-9 elementi. Quella che abbiamo visto il 31 marzo del 1973 qui a Bologna, un episodio veramente che fece, non dico scalpore, ma sicuramente fu molto molto ironico, diciamo, perché il percussionista, che si chiamava Ribop, credo che sia morto non tanto tempo fa, a un certo punto si accasciò sulle percussioni, era il percussionista, completamente ubriaco, forse, non solo, e fu portato fuori a braccia praticamente. Comunque il concerto andò avanti, fu un concerto veramente splendido. Fra le altre cose, Traffic hanno fatto un album che è assolutamente imperdibile per ogni discoteca personale che si rispetti, si chiama John Barleycorn Must Die. John Barleycorn era colui a cui viene dato il merito di aver inventato il whisky. E l'album, un long play, fu pubblicato nel luglio del 1970, mentre la Deluxe Edition fu pubblicata nel 2011 in formato 2 CD. Nel secondo ci sono 6 canzoni dal vivo registrate al Fillmore East di New York City il 19 novembre del 1970. Il brano che ho scelto per voi si chiama Every Mother's Son. Loro sono i grandissimi Traffic. See you. Fillmore East di New York City, un locale storico nell'ambito della musica rock, in scena il 19 novembre 1970 i Traffic, questo album che è stato ripubblicato nel 2011, è appunto John Barleycorn Must Die, uno dei loro album, anzi forse il migliore album della loro discografia, è stato ripubblicato appunto con alcuni brani live aggiunti, questo era uno di quelli, Every Mother's Son. Passiamo agli anni 80 con una registrazione del 1985 da parte di un gruppo che ha un nome fantastico, si chiamano The Men They Couldn't Hang, gli uomini che non poterono impiccare. Sono stati attivi dal 1984 al 1991 e poi sono riformati nel 1996 fino ad oggi. Naturalmente vengono da Gran Bretagna sulla scia dei Pogues, tanto che il nome in realtà gli è stato affibbiato, diciamo così, da Shane McGowan, appunto, dei Pogues. Hanno fatto 3 album live più diversi singoli dal vivo, questo è uno di quelli. Il brano di punta nella prima facciata, siamo al 12 pollici in studio, si chiama Shirt of Blue. Nella facciata B invece sono 4 canzoni registrate all'Electric Ballroom di Londra il 19 novembre del 1985. Quello che ho scelto per voi si chiama Scarlet Ribbons, loro sono The Men They Couldn't Hang, 19 novembre 1985. Shall not feel like the world's a celebration. salvation on a lovely isle, so cold and bare. Lies that dead soldier, so fresh and rare. Ribbons, scarlet ribbons, carouseling in the sun. Whoa, ribbons, scarlet ribbons, there's one for it. Electric Ballroom di Londra, siamo al 1985, naturalmente 19 novembre, visto che siamo in territorio Recorded Today. Scarlet Ribbons, uno dei classici, fra virgolette, naturalmente, almeno per quel che riguarda il songbook di questi The Man They Couldn't Hang, un'ottima band che vedemmo in concerto anche tanti anni fa, ai tempi del Cubo qui a Bologna, in un ottimo, ottimo concerto. Shirt of Blue è il 12 pollici che vi ho fatto ascoltare, il brano, lo ripeto, si chiama Scarlet Ribbons. Spero non ci siano bisogno di presentazioni per R.I.M., grandissima band che dal 1980 gliela data su, come si suol dire, nel 2011, tanto di cappello per questa decisione. E nel frattempo, fra il 1980 ed oggi, fra il periodo in vita e quello postumo, hanno pubblicato 4 album live, più tantissimi ma tantissimi singoli. Questo è uno di quelli, Strange Currency, il brano in studio, più 3 brani registrati dal vivo a seguire al 40 Watt Club di Athens, che è la loro città di provenienza, il 19 di novembre del 1992. Era uno show, un benefit per raccogliere fondi per Green Peace, e il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Drive, R.A.M. All right, let's go. Smack, crap, bush, whack, tie another one to rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tick, top, tick, top. What if you did? What if you walk? What if you tried to get off? What to do, baby? Hey, kids, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. What if you did? What if you walked? Baby, you rocked around the clock. Tick, top, tick, top. Maybe I ride, maybe rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Maybe you dead, maybe you walk, maybe you rock around the clock. Tick, tock, tick, tock. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I try to get off, baby. Oh, Chi ha visto il film su Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere, oppure Liberami dal Nulla in italiano, avrà capito che quando Bruce Springsteen si mette in testa una cosa difficilmente si riesce a fargli cambiare idea. E a metà degli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, 2005, 2006, 2004, si mise in testa di omaggiare la musica folk, in particolare Pete Seeger, cambiando radicalmente approccio musicale, e fece un album che si chiamava We Shall Overcome the Seeger Session, che era accreditato allo stesso Bruce Springsteen solo, mentre l'album live che uscì e che ci siamo ascoltati adesso, che si chiama Live in Dublin, fu accreditato anche alla band. La band che si chiamava originariamente Seeger Session Band, ma poi i discendenti di Pete Seeger ebbero qualcosa da dire e il tutto fu cambiato solamente in Sessions Band, ma questo è un piccolo aneddoto. Il tutto è stato registrato al Point di Dublino in Irlanda, infatti l'album, come detto, si chiama Live in Dublin, il 19 novembre del 2006. Il brano che ci siamo ascoltati, chiaramente un traditional, si chiama Oh Mary Don't You Weep, il tutto da Bruce Springsteen and the Sessions Band. Always know your pal if you ever navigated on a Erie Canal. Chi invece è sempre coerente con se stesso è il quartetto dei Red Hot Chili Peppers. Vengono da Los Angeles e sono attivi dal 1982 ad oggi, con un cambiamento di qualche chitarrista nel corso degli anni. Hanno fatto solamente due album dal vivo, uno dei quali è scaricabile gratuitamente dal loro sito, o almeno lo era. E anche questo che ci andiamo ad ascoltare è un extended play che si scaricava gratuitamente dal loro sito, si chiama I'm With You Europe. Sono 5 brani registrati in giro per l'Europa, anzi a dire il vero 4 in Gran Bretagna e 1 in Italia, a Milano nello specifico, che però è stato registrato in dicembre. A noi interessano le due registrazioni di Birmingham, in Gran Bretagna naturalmente, registrate il 19 novembre del 2011. Uno è un grande classico della band, ripeto, Red Hot Chili Peppers, 19 novembre 2011, il brano si chiama Danny California. With a kippie in Alabama, she would swing a hammer. Cause you gotta play when you break the panorama. She never knew that there was anything more than love. What in the world does your uniform you take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on the bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on a merry way, saying baby what you gonna. Looking down a barrel of hot metal 45, just another way to survive. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess, I'm your priest. Yeah, yeah. She's a lover, baby, and a fighter. Should've seen the coming when I got a little brighter. With the name like in California, they were gonna come when I was gonna warn ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby today. Your teeth. She's my priestess, I'm your priest. broke the nine when 11 months later I never made it up to Minnesota. North Dakota man was a gun of the border. Then in a badland ship, saving my best for last. Head on the hoods when I land. Down to LG Arena di Birmingham, Gran Bretagna, 19 novembre 2011, Red Hot Chili Peppers, Danny California, da questo EP che potete scaricare gratuitamente, o almeno credo, non so se l'hanno tolto, ma c'è stato per parecchio tempo, sul loro sito gratuitamente, appunto questo I'm With You Europe. A concludere Ricordi Today di oggi e anche Città Fujiko Live Club, arriva un'altra band di quelle delle mie favorite, si chiamano Gov Mule, un trio fondato nel 1994 da due membri della Lehman Brothers Band. Poi, dopo la morte di uno dei due, Alan Woody, il bassista, nel 2000, è diventato un quartetto con l'aggiunta di un tastierista. Hanno fatto un sacco di album live e quasi tutti i loro concerti sono scaricabili dal loro sito, a pagamento naturalmente, tipo questo che ci andiamo ad ascoltare adesso. Ma prima vi voglio ricordare che vi siete ascoltati un paio di ore di musica live dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko e tutto denominato appunto Città Fujiko Live Club ogni mercoledì, quindi l'appuntamento è per mercoledì prossimo per sempre un paio d'orette. Ci sentiamo appunto sui 103.1 MHz ma anche sul web. Ci andiamo ad ascoltare questo concerto della serie Io C'ero, ma molti di voi credo e spero ci fossero. Teatro delle Celebrazioni, come dicevo c'è la possibilità di scaricare i concerti di Gov Mule. Teatro delle Celebrazioni, Bologna, 19 novembre 2003, grandissimi Gov Mule, Stone Cold Rage. Ciao a tutti da Nevio. What's come between us has never been this bad. Living like a dying man, crazy, out your head. Better wake up while you're still living. One of these mornings, wake up dead. I watched you stumble on every street in town. Watched your women, best friends, put you down. Like a dying man, must be crazy. she been? Lots of pain, but I'll get mad. We're living like a dying man. Crazy, out you get. Better wake up when you're still living. One of these mornings, they could be. One of these mornings, you're just another fool that woke up.